tu dicevi un dì, non venire se partirò, non venire a salutare il nostro amore. Ma ora so che tu sei là, sola ormai, e il treno va, sento già che insieme a te lontano va. Forse ancora ti illuderai, forse ancora mi cercherai, piangerai ed il mio nome invocherai. Sento già che il treno va, sento già che il treno va, sento già che insieme a te lontano va. Ma perché rimango qui se vorrei venire da te, se vorrei insieme a te fuggire ancora? E sei tu che partirai, e sei tu che partirai, e chissà, nessuno sa se tornerà. Anche tu dicevi un dì, non venire se partirò, ma ora so che forse mai ti rivedrò. Sento già che il treno va, sento già che il treno va, e con lui e il nostro amore che se ne va, e con lui il nostro amore che se ne va.